Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: la Grecia, più volte l'abbiamo ricordato, c'era chi era scettico, dispiace aver ragione in questi casi, ma insomma sta precipitando la situazione in Grecia dopo che ieri sera i paesi europei non hanno raggiunto un accordo su un nuovo pacchetto di aiuti da 60, 70, forse 80 miliardi di euro, c'è chi ha ipotizzato anche 90 miliardi di euro. Praticamente un forte flessione della borsa di Atene, e la differenza tra quanto rende un'obbligazione greca e quanto rende l'equivalente obbligazione tedesca, lo spread cosiddetto, ha raggiunto il livello record di 1600 punti, cioè il 16%, è il massimo divario nei rendimenti mai raggiunto da quando esiste l'euro. L'agenzia di rating, quindi che dà i voti ai debiti degli stati, dei privati, ha anche ridotto il voto su 4 banche greche, paventando anche il rischio di una fuga dei risparmiatori. Paese di nuovo bloccato da uno sciopero generale contro le politiche di austerity varate dal governo. Nel frattempo l'altra agenzia di rating, Moody's, ha abbassato il voto ha messo sotto osservazione, con l'ipotesi di abbassare il voto, di colossi del credito francese che si chiamano BNP Paribas, Société Générale e Crédit Agricole, cioè le prime tre banche in Francia. Per quale motivo? A causa della loro esposizione verso la Grecia. Le banche francesi complessivamente sono esposte per 56 miliardi di euro verso la Grecia, le tedesche per 34 miliardi, le italiane per 4 miliardi. L'effetto Grecia si vede anche in borsa: meno 2% adesso Milano, meno 1,35 Parigi, meno 1,20 Francoforte, meno 0,70 Londra, ma anche l'America. L'Italia perde di più rispetto anche a Parigi, perché da noi il peso sull'indice delle banche è più forte. UbiBanca, che tra l'altro ieri a mercato chiuso ha annunciato che sta varando un piano per ricapitalizzare in sostanza la Popolare Emilia Romagna, che ha annunciato ieri a borsa chiusa un piano di rafforzamento del patrimonio, perde più della media, perde praticamente il 6,55% in questo momento, ma anche UbiBanca perde parecchio, il 5%, è un tonfo più che una perdita. Intesa San Paolo anch'essa scivola pesantemente, meno 4,40%, Mediobanca meno 3,80%, Mediolanum meno 3,90%, Monte dei Paschi meno 3,30%, Azimut meno 3,1%, Unicredit meno 3%, Fondiaria meno 2,80%, Banco Popolare meno 2,60% e la Popolare di Milano perde il 2,5%. Poi c'è la pattuglia di altri titoli: Telecom meno 2,5%, Atlantia meno 2,5%, come ST Microelectronics, Fiat, sia industrial che normale, che auto, meno 2,2%. Questo per quello che riguarda i cali principali. Sui rialzi non c'è nulla, c'è solo Tod's più 0,70%, Autogrill invariata come Parmalat e Bulgari, ma anche Pirelli. Di Grecia parleremo dopo i mercati, chiaramente non c'è purtroppo molto da aggiungere. Parleremo anche di Ferragamo, che oggi ha presentato la sua quotazione in borsa, che avverrà il 29 giugno, già prenotate tutte le azioni. E nella seconda ora del programma avremo il nostro ospite, il ministro Brunetta. Perché? Perché chi ha visto i siti oggi e letto i giornali sa già tutto. Ieri in un convegno c'è stata la richiesta di alcuni esponenti dei precari della pubblica amministrazione di intervenire, di fare una domanda al ministro. Il ministro se n'è andato, non ha voluto rispondere. Ha detto: siete l'Italia peggiore. Migliaia di email e, diciamo, il tam tam su internet, sulla rete, Facebook, Twitter, le mail, i blog, è impressionante. Abbiamo chiesto al ministro Brunetta di spiegarci il perché di quella frase, se la ripeterebbe, quant'altro. Alle 18.10 il ministro sarà nostro ospite. 349-238-6666 per i vostri sms, le altre notizie in breve. Gli altri mercati, partiamo da quelli valutari. L'euro sul dollaro a quota 1,4272, l'oro è in rialzo a 1530 dollari l'oncia, il petrolio è in calo a 98,3 dollari il barile, quindi sotto i 100 dollari. E in tema di energia, oggi durante l'assemblea dell'Unione Petrolifera Italiana, il presidente De Vita è stato nostro ospite decine di volte, senza che io sia mai riuscito a capire perché sale così rapidamente il prezzo della benzina quando sale il petrolio, ma non altrettanto scende quando scende il petrolio. Il presidente De Vita ha dato una stima su quella che sarà complessivamente la bolletta energetica del paese nel 2011. Sarà un record, purtroppo, quanto pagheremo di energia e di elettricità e di petrolio. 63 miliardi di euro la fattura complessiva energetica per il paese Italia nel 2011 contro i 53 miliardi 54 del 2010, cioè pagheremo quasi 10 miliardi di euro in più grazie all'aumento dei prezzi del petrolio e al conseguente aumento di prezzi della benzina. Solo la bolletta petrolifera salirà da 28,5 miliardi a 36 miliardi di euro, massimo assoluto mai pagato così tanto in un anno l'Italia per il petrolio. E poi l'affermazione, la conosciamo, comunque la facciamo sentire, del presidente dell'Unione Petrolifera Italiana Pasquale De Vita, secondo cui la rete della distribuzione dei carburanti in Italia è già aperta a chiunque voglia entrare. Ci sono 7-8 mila impianti self-service, il prezzo praticato è già in linea con quello europeo. Della distribuzione dicono tutti che è una cosa ingessata, ma a noi non sembra molto ingessata. Nella distribuzione sono successe negli ultimi tempi un sacco di cose. Noi abbiamo cercato di chiudere, anzi abbiamo chiuso qualche migliaio di impianti per ridurre i costi e quindi migliorare poi l'offerta. E nel frattempo se ne sono costruiti a qualche altro migliaio, quindi abbiamo più impianti di prima dopo aver fatto tutta l'operazione riduzione. Tutto questo ha creato una rete di 7-8 mila impianti presso la quale, a parità di servizio, sta scendendo dalla macchina, si comprano carburanti a prezzi europei. Noi oggi abbiamo i prezzi europei, non sono impianti ben attrezzati così come naturalmente sono gli impianti europei, perché molti di questi sono i self-service col prepagamento, con la moneta, però abbiamo aumentato l'offerta di carburante a prezzo europeo. C'è, certo, non è una cosa molto esaltante perché in fondo è una rete abbastanza povera. Quindi le responsabilità sono della rete, dicono i petrolieri, a noi risultano comunque prezzi in media del petrolio, al di là delle accise dell'IVA, più alti di 3-4 centesimi rispetto alla media europea. Questo era lo spread, il divario di cui ancora non si capisce il perché, ripeto, al di là delle accise e dell'IVA, che comunque pesano moltissimo, pesano per 2/3 sul prezzo della benzina. E poi dopo il referendum, dice l'Unione Petrolifera Italiana, dopo lo shock di Fukushima e il ripensamento in atto in molti paesi, le energie fossili, petrolio, gas e carbone, hanno un ruolo ancor più insostituibile in termini di disponibilità, versatilità, economicità e anche sicurezza. Un commento su Porto Tolle, la sentenza del TAR, dal Consiglio di Stato, che ha bloccato l'impianto a carbone pulito che l'Ener vuole realizzare a Porto Tolle in Veneto, tra l'altro con l'appoggio anche dei sindacati e dei lavoratori, li abbiamo avuti ospiti, i lavoratori di Porto Tolle. A quel punto, dice Pasquale De Vita, non si riesce a fare impresa in queste condizioni, neanche quando nei progetti c'è una forte valenza tecnologica e ambientale. Il ministro Romani, ministro dello sviluppo economico, presente all'assemblea dei petrolieri, ha detto bisogna, per rispondere alla sfida energetica posta dalla crisi, aumentare la produzione di gas e greggio in Italia. In Basilicata aumenterà di 90.000 barili il giorno sentiamo questo passaggio sul contributo delle produzioni nazionali di idrocarburi, quindi gas e petrolio. L'Agenzia Internazionale dell'Energia prevede da oggi fino al 2035 un'epoca d'oro per il gas e per le fonti fossili. E infatti continueranno a rappresentare, dice l'AIE, il 70% del totale dell'energia primaria, 27% di gas, 27% di greggio, 25% di gas, 22% di carbone. Noi abbiamo anche un'altra possibilità, perché in Basilicata sapete che stiamo facendo dei buchi per terra, con la possibilità di farli anche offshore. Noi riusciamo sempre ad assorbire nella maniera più emozionale quello che accade nel mondo, quello che è accaduto in Louisiana ci ha impedito, ma ci sto lavorando, sia per la parte che riguarda il Mar Ionio, sia per la parte che riguarda le introspezioni che vengono fatte ad est delle isole Tremiti, ma mentre nel Mar Ionio probabilmente riusciremo a trovare una soluzione, ad est delle isole Tremiti purtroppo si sono consolidate tutta una serie di meccanismi locali per cui sarà complicatissimo. Io mi chiedo se queste persone si rendono conto di che cosa voglia dire, cioè senza energia si torna al Medioevo. Il fatto che l'Italia possa avere la presa di accesso a un approvvigionamento nazionale facile sarebbe la soluzione di tantissimi problemi, al di là della valutazione sulla bilancia energetica. Il non poterlo fare, francamente, mi sembra un ritorno al passato. In Basilicata dei passi avanti mi pare che si stiano facendo, 90.000 barili al giorno, si potrebbe raggiungere il 7% del consumo nazionale. Anche per quanto riguarda il gas potremmo incrementare le nostre produzioni oggi di 7 miliardi di metri cubi all'anno, potremmo incrementarle di altri 3 miliardi di metri cubi. Così il ministro Romani sull'approvvigionamento di energia fossile, appunto petrolio e gas dall'Italia, e poi il tema delle rinnovabili. Allora, adesso lo dico perché questo programma ha, oltre che una memoria d'archivio, anche una memoria nel conduttore. Tutto nella vita si può fare, si può cambiare idea, ci mancherebbe, anzi un segno di intelligenza, però voglio dire, leggiamo oggi il fondo di pane bianco su Corriere della Sera, forse anche tenere fede alle proprie idee. Se il governo era a favore del nucleare poteva combattere fino alla fine. Adesso vi faccio ascoltare cosa ha detto oggi il ministro Paolo Romani, però cosa disse anche lo scorso 16 marzo, quindi stiamo parlando di 3 mesi fa, sul tema del nucleare. Prima il Romani di oggi sull'importanza delle energie rinnovabili nel nostro paese. Le energie rinnovabili sono il futuro della produzione energetica del nostro paese, hanno qualche piccolo problema. Sulle 8.760 ore che ci sono in un anno, il solare e il fotovoltaico, ad esempio, al nord funziona per 1.000 ore, al sud funziona per 1.500 ore. E siccome non abbiamo ancora la possibilità di accumulare energia e tenercela per quanto più ci serve, e abbiamo il problema di consumarla esattamente nel momento in cui la produciamo, c'è anche il problema di avere una fonte energetica che è dipendente non dalle necessità, ma dalla possibilità di essere prodotta. Ineccepibile il fatto che sulle fonti, soprattutto quando parliamo di fotovoltaico ma anche dell'eolico, quello che manca in questo momento è la continuità nella produzione di energia elettrica. Energie rinnovabili quindi sono il futuro della produzione energetica del nostro paese, sono il futuro della produzione energetica del nostro paese, così oggi Romani. Sentiamo lo stesso ministro 3 mesi fa sul nucleare. Oggi all'ora del giorno è il problema della sicurezza. Lunedì torniamo a Bruxelles per approfondire questo tema. Si è deciso di fare in maniera coordinata in Europa gli stress test che riguardano tutte le centrali di prima generazione probabilmente. Il problema non è più italiano, il fatto che noi non si abbia centrali è assolutamente indifferente perché abbiamo le centrali a 100-200 km dal confine, quindi qualsiasi problema ci possa essere potrebbe riguardare anche noi. Abbiamo anche sottolineato il fatto che in Giappone quello che è accaduto non è stato tanto per il terremoto gravissimo, eccezionale, spaventoso, ma per il fatto che poi è stato seguito dallo tsunami che ha interrotto i circuiti di raffreddamento. Quindi è stato un evento di una straordinarietà incredibile. Andiamo a chiudere con le headlines, con le notizie in breve, con a chi vuole sapere di Brunetta. Ripeto, Brunetta sarà il nostro ospite alle 18.10. Avete ragione nel dire che anche il Partito Democratico, nel caso specifico il segretario Bersani, era d'accordo in tema di acqua alla maggiore concorrenza e ingresso dei privati. Va tutto bene, ripeto, si può cambiare idea nella vita, basta insomma farlo in maniera ragionata e giustificata. Obiettivamente sapete che questo programma difende il governo in alcuni casi, lo accusa in altri, dipende. Obiettivamente sul nucleare il dietrofronte è stato vistoso. Ancora a marzo il ministro Prestigiacomo diceva che il nucleare non era in discussione, ne aveva fatto una battaglia, almeno difenderla così, per l'onore della bandiera, fino al referendum. Vabbè, allora, al di là delle altre notizie, vorrei partire però sempre di nuovo con il tema della riforma fiscale, da come si sta delineando e soprattutto quali sono le ipotesi allo studio, avete visto le aliquote, ne abbiamo parlato anche ieri, su tre aliquote ragiona il ministro Tremonti, e l'ipotesi anche di un aumento dell'IVA per compensare il mancato gettito dalla riduzione dell'IRPEF. Infatti tutta la manovra si può fare se garantisce lo stesso gettito, altrimenti con la Grecia che sta ballando un sirtacchi tragico in questo momento si rischia troppo. Appunto, parliamo di consumi che sono al centro anche dell'ipotesi di riforma fiscale del governo, per quello che si è capito, insomma, liberare risorse per aumentare il potere d'acquisto, poi questo deve avere una ricaduta sui consumi. Sappiamo tutti, infatti, lo raccontiamo da un anno, che l'unica cosa che sta trainando una ripresa economica italiana non certo soddisfacente si chiama export. I consumi non sono solo fermi, sono in calo a valore reale, basta vedere il dato ultimo sulle vendite al dettaglio e paragonarlo anche all'inflazione, si capisce che in quasi tutti i settori il segno reale, quindi al netto dell'inflazione, è un segno meno. Se ne è parlato e se ne sta parlando oggi a Milano in un convegno organizzato da Centromarca, che è l'associazione italiana che raggruppa l'industria di marca, sono 200 imprese aderenti, però rappresentano il 70% dei consumi di questo paese, 45 miliardi di euro di giro d'affari. Dicevo, se ne sta parlando in un convegno chiamato Scenari Globali, Prospettive di Impresa. Sono presenti Lucio Caracciolo, Giovanni Covoligilli di Fede Distribuzione, Francesco Averna, Mario De Aglio, l'economista spesso nostro ospite, James Hill della Unilever, Paolo Magri dell'ISPI, Pietro Modiano di Nomisma, Franco Venturini del Corriere della Sera, diversi esponenti dalla carta stampata alle imprese all'università, per capire come si fanno ripartire i consumi. Siamo in collegamento gentilmente con il presidente di Centromarca, Luigi Bordoni. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, presidente Bordoni, da quello che abbiamo intuito, l'ipotesi di rimodulazione fiscale, quello che abbiamo capito più che intuito, di rimodulazione fiscale allo studio dovrebbe prevedere, vediamo se si arriverà alle tre aliquote annunciate o indicate ieri da Tremonti, ma dovrebbe prevedere comunque un abbassamento delle aliquote IRPEF, chiamiamole così, e anche forse quelle sulle imprese, compensato, visto che i conti non si possono toccare, non possono essere messi a rischio, da un aumento dell'IVA. Siete d'accordo? Non siamo assolutamente d'accordo, perché questo, un provvedimento di questo genere avrebbe un effetto immediato di depressione della domanda di beni di consumo, che già, come lei ha detto, sta avendo un andamento decisamente piatto, in alcuni settori addirittura in discesa. Quindi se noi pensiamo che già abbiamo questo andamento sofferente dei beni di consumo, in più stanno arrivando purtroppo delle prospettive di aumento dei prezzi per quanto riguarda un po' tutti i settori, per l'energia, l'aumento su scala globale delle materie prime alimentari, quindi tutto questo, se a tutto questo aggiungiamo un incremento dell'incidenza dell'IVA, andiamo veramente a creare dei grossi problemi alle famiglie e ai consumatori, e quindi a scoraggiare o a rendere molto difficile fare tornare i conti delle nostre famiglie. Quindi a questo punto direi che sarebbe un provvedimento che va a colpire il settore produttivo, il settore economico più importante del paese. Mi scusi, però se vogliamo fare una riforma fiscale per abbassare quello che è il prelievo fiscale sui redditi da lavoro, da qualche parte bisognerà trovarli questi soldi. Voi dite, se si aumenta l'IVA si deprimono ulteriormente i consumi, secondo altri invece si liberano più risorse riducendo la tassazione sul lavoro e aumentando invece l'IVA, voi che soluzione alternativa proponete? Perché non basta dire no all'IVA, no all'aumento dell'IVA. Beh, guardi, c'è un bacino enorme che è quello dell'evasione fiscale, che può essere, che già ha dato delle risorse, ma può essere affrontato con una decisione, con delle misure ancora più incisive, e come ha detto il governatore della Banca d'Italia e lo stesso ministro del Tesoro, possono dare ulteriori risultati in questa direzione. Lei capisce che se abbassiamo l'IRPEF ma poi aumentiamo il costo della spesa che andiamo a fare tutti i giorni, è soltanto una partita di giro, appesantiamo dei settori che sono già in sofferenza e non risolviamo assolutamente nulla. Quindi bisogna andare in questa direzione, ma c'è anche un'altra strada molto importante, che è quella di liberalizzare, di aprire alla concorrenza i settori protetti che assorbono potere d'acquisto in modo indebito e abnorme. Basta vedere quali sono gli incrementi dei prezzi e delle tariffe dei settori che operano in concorrenza come i nostri e quelli invece dei settori protetti, che sono i servizi che fra l'altro rappresentano delle spese obbligate, e quindi per la casa, luce, gas, telefono, trasporti, tutti questi servizi che hanno aumentato le loro tariffe addirittura del doppio dell'inflazione negli ultimi 10 anni. I nostri prezzi sono mossi intorno alla metà dell'inflazione. Ma voi avete fatto un calcolo di quanto, perché si parla sempre delle liberalizzazioni, per carità, noi da sempre siamo paladini di una maggior concorrenza tra i settori, che quindi vada a vantaggio dei consumatori, ma avete fatto un calcolo su quante risorse potrebbe liberare? Ci sono dei calcoli molto accurati fatti dall'Università Bocconi, fra l'altro per Feder Distribuzione, e che praticamente calcolano in 3.200 euro all'anno per famiglia come minimo il risparmio che verrebbe dalle liberalizzazioni. Quindi è una cifra, direi, considerevole. 3.200 euro all'anno. Sicuramente darebbero molto ossigeno al potere d'acquisto delle famiglie. 3.200 euro l'anno, questo secondo il CERMES Bocconi, se ho ben capito. È un calcolo del CERMES Bocconi, esatto. No, questo lo dico anche perché quando parliamo di liberalizzazione c'è sempre chi scrive al 349-238-6666, ma cosa vogliono dire? Vuol dire maggiore concorrenza tra i settori protetti, che si chiamano in alcuni casi elettricità e gas, in altri servizi legali, i commercialisti, i servizi professionali, il credito, le assicurazioni, sono tutte voci che stanno aumentando, cioè i trasporti, per esempio i trasporti locali, i lavoratori sanno benissimo che negli ultimi tempi sono aumentati sino del 20%, quindi siamo a molte volte l'inflazione. Da tutto questo non emerge un tema che vedo anche però molto sottolineato dagli ascoltatori, il tema dei prezzi. Allora, voi rappresentate l'industria di marca, che tendenzialmente ha, appunto, avendo una marca importante, un marchio importante, ha prezzi un po' più alti. Ma insomma, anche abbassare i prezzi servirebbe a aumentare i consumi, mi faccia essere un po' così, un po' tranchant. Su questo non c'è assolutamente dubbio. Però lì notizie ne vediamo poche. Posso citarle, un dato nostro e uno dell'antitrust. Il dato nostro, gliel'ho già accennato prima, nell'ultimo decennio, quindi il 2000-2009, i prezzi dei beni di consumo sono aumentati intorno al 7%, la metà dell'inflazione. Questo grazie a una promozionalità molto spinta, per certi versi eccessiva, perché impoverisce eccessivamente le imprese. Dall'altro le do un dato desunto dalla relazione di Catricalà in Parlamento: i beni dei servizi non esposti alla concorrenza, che sono, come ripeto, delle spese obbligate per le famiglie, sono aumentate del doppio dell'inflazione negli ultimi 2 anni, sono aumentati del 4% contro un'inflazione del 2%. I beni di consumo sono diminuiti nell'ultimo biennio del 2%, quindi c'è una differenza di 6 punti tra la nostra offerta e quella dei servizi che lei citava prima. Grazie, e grazie anche per la disponibilità, visto che è in corso il convegno, al presidente Centromarca Luigi Bordoni. Grazie, buonasera. E lo so, vedo molti ascoltatori che scrivono aumentare l'IVA, mai, questo vorrebbe dire che poi i prezzi, e l'esperienza, diciamo, dell'euro, anche se non c'entra nulla con la lira, non è un'esperienza edificante, con la scusa dell'IVA in aumento poi il mondo del commercio potrebbe aumentare i prezzi ben più dell'IVA, e chi li controlla? Lo so, è un rischio, ripeto, noi non abbiamo una soluzione, stiamo alle dichiarazioni del ministro Tremonti, che ha detto ridurre i costi della politica come atto simbolico soprattutto, e poi rimodulare le aliquote per ridurre quella che è l'imposizione sul reddito da lavoro, casomai aumentando l'IVA, casomai anche aumentando o armonizzando, come si dice, la tassazione sulle rendite finanziarie. Devo due risposte velocissime a alcuni messaggi sul nucleare. Allora, il nucleare e sulla posizione del PD. Allora, prima la posizione del governo e del ministro Romani. Visto che mi chiedete conferma, di solito non parliamo mai senza le carte in mano. 15 marzo 2011, ANSA dalle 16.34, il ministro Romani dice: tutti i paesi europei hanno centrali, il 19% dell'energia che consumiamo in Italia è prodotta dal nucleare, è inimmaginabile tornare indietro su un percorso già attivato. ANSA delle 16.34 di 3 mesi fa. Ok? E tra l'altro il giorno prima il ministro Prestigiacomo aveva detto: la linea italiana rispetto al programma nucleare non cambia. Io ho solo detto, beh, dovevano mantenere questa linea almeno fino al referendum. Tanto a sto punto, perso per perso, almeno salvavi la coerenza politica. Il PD, allora, sappiamo tutti, lo abbiamo raccontato quando abbiamo fatto la puntata sull'acqua, che il PD ha una proposta di legge che è diversa da quella del governo, che prevede l'ingresso volontario dei privati, che non dava delle date di scadenza. Mi sono limitato a ricordare che aver detto no alla privatizzazione dell'acqua, all'ingresso dei privati nella rete idrica, è una posizione un po' diversa da quella che Bersani ha sempre avuto da ministro, quando era per la massima concorrenza in tutti i settori, anche sulle municipalizzate. Meteo, pubblicità, poi la borsa, il caso Greco, la chiusura è sui minimi, meno 2,16%. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, puntata un po' in salita oggi, perché adesso parleremo di cosa è successo in borsa, di cosa sta capitando in Grecia, dove la situazione peggiora se possibile di ora in ora. Il primo ministro greco poco fa, Giorgio Papandreou, ha detto di essere pronto a dimettersi, e questa non è una bella notizia, per facilitare la formazione di un governo di unità nazionale, così come chiesto dall'opposizione conservatrice. C'è un problema di tenuta del governo greco, i socialisti sembrano, insomma, non essere più disposti a reggere questa forma di esecutivo. È chiaro che questo va a complicare ulteriormente la situazione già, diciamo così, paludosa in cui si è ficcata la Grecia, truccando i conti e poi subendo anche l'effetto della crisi economico-finanziaria. Oggi il giudizio pesantissimo di un'agenzia di rating che teme la fuga dei conti correnti, e quando lo dici, di fatto anche le agenzie di rating dovrebbero metterci un po' più di sale in testa, perché se lo dici è un invito a farlo, no? Immaginate se Standard & Poor's dicesse: temiamo una fuga dei conti correnti in Italia, domani avresti la fila agli sportelli. Io delle volte non capisco, ma mi arrendo. Prima di tutto però le reazioni in borsa, e quindi mercato meno 2,16%, Milano oggi tutto legato all'effetto Grecia. Dicevo, puntata in salita, anche perché poi abbiamo alle 18.07 il ministro Brunetta, che ci spiegherà perché ha detto che i precari che glielo hanno contestato rappresentano l'Italia peggiore. Quindi vedo una puntata, insomma, in cui almeno una volta ogni tanto vado a guadagnarmi la pagnotta. Allora, Livia Zancaner, rasserenaci tu, Radio Colli Sole 24 Ore. Buonasera, Livia. Sì, buonasera. Allora, in realtà sui mercati c'è poco da rasserenare, ecco. Nel senso che l'effetto della Grecia ha penalizzato ovviamente le banche, che oggi hanno risentito comunque anche di Moody's, che ha preannunciato un possibile no downgrade, quindi taglio del rating sulle principali 3 banche francesi, proprio per esposizione nei confronti della Grecia. E quindi Milano è stata la piazza più penalizzata, considerando sì, che sul nostro destino a fare la parte del leone sono proprio i titoli finanziari. Sì, anche se io ricordo che le banche italiane, lo dico per correttezza, sono tra le meno esposte in assoluto rispetto al debito greco, e lo dico perché poi la borsa spesso anche va con l'accetta, non va a selezionare, ma insomma le banche francesi sono esposte per 56 miliardi, le banche tedesche per 34, le banche italiane per 4 miliardi. Nel totale le banche europee sono esposte per 136 miliardi di euro. Oggi però è arrivata anche la notizia di Moody's, un'altra agenzia di rating, di voto sui debiti, che ha messo sotto osservazione, Livia, i tre colossi bancari francesi, proprio per via dei loro prestiti alla Grecia. Sì, assolutamente sì, infatti ha messo sotto osservazione il rating con una possibile quindi revisione mal ribasso. Si tratta delle principali tre banche, come dicevi tu, quindi BNP Paribas, Société Générale e Crédit Agricole. Ovviamente questo ha scatenato le vendite sul comparto bancario, che in Europa ha perso circa l'1,8%, quindi ovviamente anche se le nostre banche sono meno esposte ne hanno comunque risentito. Volete sapere qual è l'altra agenzia di rating? È Standard & Poor's, che ha ridotto il suo voto su quattro banche greche, poi ne parleremo, e ha paventato il rischio di una fuga dei risparmiatori. Ma come si fa a paventare il rischio di una fuga dei risparmiatori se sappiamo che vuol dire in qualche modo, evocandola, stimolarla? Io non lo so, delle volte non capisco. Dai, Livia, almeno tu mi rassereni. I titoli sui cali oggi c'è poco da dire. UbiBanca meno 5,20, Intesa San Paolo meno 4,90, Mediobanca meno 3,70, Lanum meno 3,60, Monte dei Paschi meno 3,40, Unicredito meno 3,30, Fondiaria meno 3,20, Azimut meno 3,20, Popolare di Milano meno 2,80%, Banco Popolare meno 2,60%, la peggiore di tutte le banche comunque è quella dell'Emilia Romagna, meno 6,7%. Lì ci sono anche notizie, diciamo, specifiche, Livia. Sì, qua ci sono delle novità. Ieri a mercati chiusi, infatti, la banca ha annunciato un piano di rafforzamento del patrimonio in vista dell'introduzione delle nuove regole, no, più stringenti, di Basilea 3. Ha annunciato quindi un piano che prevede l'acquisto delle minorities. Le minorities sono le azioni ordinarie delle banche controllate, non ancora possedute, quindi dalla Popolare dell'Emilia-Romagna, ad eccezione del Banco di Sardegna. Il piano prevede poi anche altre cose, come il rimborso anticipato di un bond convertibile da 250 milioni e la richiesta per l'emissione di un altro bond. Quindi sulle azioni della Popolare dell'Emilia Romagna hanno influito sia il comparto sia l'annuncio fatto ieri dalla banca. Andiamo su altri titoli. Montefibra la migliore, più 38,8%. Devo dire bene oggi di nuovo i titoli legati alle fonti, diciamo, rinnovabili, o comunque quelli che hanno risentito positivamente del referendum. KR Energy più 4,90, Beghelli più 3,56, e qui mi fermo. Montefibre. Sì, allora Montefibre ha beneficiato dell'annuncio relativo ad un accordo con un gruppo saudita che si chiama SABIC, che è un gruppo attivo nella produzione di chimica di base, quindi plastica, metalli e fertilizzanti, e praticamente Montefibre ha concesso a questa società la licenza su una tecnologia per la fibra di carbonio che verrà prodotta in un impianto in Arabia Saudita. Quindi, appunto, come abbiamo potuto vedere, ne hanno beneficiato sia le azioni ordinarie sia quelle risparmio, che hanno guadagnato quasi il 21%. Traffico, poi altri titoli, poi il caso greco. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Livia Zancaner, come mai Green Power invece perde oggi l'1% e anche il settore energetico, nonostante l'annuncio del presidente dell'Unione Petrolifera, bolletta record purtroppo per l'Italia quest'anno, 63 miliardi di euro di bolletta energetica per il paese, di cui 36 di sola bolletta petrolifera. Come mai i titoli petroliferi sono al palo? Enel meno 1,5, Saipem meno 1,5, dicevamo Snam meno 0,35, Eni meno 1,80. Sì, allora vabbè, i titoli assolutamente risentono dell'andamento negativo generalizzato delle borse, anche perché bisogna sottolineare, per quanto riguarda Enel, Green Power, stamattina le azioni viaggiavano in territorio positivo, continuando a beneficiare quindi del no allo sviluppo del nucleare. Ricordiamo che Enel, Green Power è un titolo legato alle fonti rinnovabili e anche di alcune attese positive sul futuro, proprio per un rialzo dei prezzi dell'energia nel 2012 e nel 2013 e per una buona situazione patrimoniale della società. Quindi diciamo che nel caso specifico di Enel Green Power si tratta di vendite legate al resto della borsa. Al resto della borsa, sì. Altro non ho da aggiungere, perché il tema grosso, ripeto, oggi è di nuovo il tema dell'economia europea, o meglio della tenuta della Grecia, dell'effetto domino su altri paesi. Grazie Livia Zancaner. Prima di passare però alla Grecia, oggi, come anticipavamo, è stata anche la volta di Ferragamo, che il 29 giugno sbarcherà in borsa a Milano. Ha presentato alla comunità finanziaria la quotazione in borsa, tutte già prenotate le azioni a disposizione, che rappresentano il 23% del capitale. Nei dividendi andrà, ha detto Ferragamo, il 40-50% dell'utile. Eleonora Micheli di Radio Corriere Sole 24 Ore lo ha intervistato e gli ha chiesto il perché della quotazione. Noi facciamo tutto made in Italy e l'idea di quotarsi facendo i certificati azionari made in Hong Kong ci sembrava proprio un controsenso, e quindi ne abbiamo parlato oltre un anno fa, quando ancora non si sapeva di altri che lo facevano. L'abbiamo analizzato e abbiamo detto: siamo italiani, dobbiamo anzi dare il buon esempio. Il motivo della quotazione è di avere un'azienda forte, con i manager giusti che possano portare avanti l'azienda nel tempo. Gli azionisti hanno messo soltanto il 25% perché ritengono che proprio la quota minima, anzi abbiamo avuto una deroga al minimo che è più alto, e ritengono che ci sia delle belle opportunità. Beh, non male la stoccata di Ferragamo a Prada, avete sentito? Noi non facciamo come chi si quota a Hong Kong con i certificati di Hong Kong, ed è il gruppo Prada che va a quotarsi la borsa di Hong Kong, dopodiché ognuno è libero di quotarsi dove vuole e anche di non quotarsi proprio. Allora, Vittorio D'Arolde, iniziamo questo Golgota informativo, perché insomma, che cosa? Io sorrido, ma la situazione è drammatica. Al di là di Standard & Poor's che abbassa il voto a quattro banche greche e dice temiamo la fuga dagli sportelli, e al di là di un governo che è pronto a lasciare, a noi sembra che l'accelerazione sia iniziata già dall'altro ieri e stia proseguendo. Che cosa è cambiato rispetto a una settimana fa, visto che i paesi europei non si sono messi d'accordo, ma insomma hanno detto che vogliono prestare questi soldi, hanno chiesto alle banche europee volontariamente di ristrutturare, rinegoziare i loro crediti con Atene? Allora, per capire la situazione bisogna avere ben chiaro un problema. Quando si parla di crisi di questo tipo, è sempre una crisi che da bancaria o di tipo economico, finanziario, diventa una crisi di debito. Nel momento in cui tu hai un problema come quello greco, che è un problema di debito, di bond, questi titoli di Stato sono andati a essere comperati da chi? Da banche europee, da fondi di investimento, addirittura dalla stessa previdenza greca. Quindi noi stiamo parlando di coloro che aspettano da questi bond la pensione, obbligazioni. Da coloro che si aspettano dei rendimenti sicuri, e dalle banche che ne hanno appunto fatto queste. Molte di queste banche sono proprio le banche europee. Ecco perché quando si parla di salvare la Grecia, in realtà si tratta di parlare di salvare le banche europee. Diciamola tutta. Questo è il discorso. L'ha capito anche l'Angela Merkel in Germania, che non era un problema di salvare i greci, i mediterranei, che mangiano una dieta diversa dalla loro, ma sono le banche tedesche, oltre a quelle francesi, sono che sono comprate paccate di milioni di bot greci tedesche, che hanno trovato che i tassi di interessi greci, non a caso, erano quelli migliori. Perché? Perché erano comodo più rischiosi. Così. Allora, a questo punto che cosa si fa? La Germania cerca di dire no, noi non vi salviamo perché il contribuente tedesco è arrabbiato e quindi poi ci penalizzerà al prossimo, naturalmente, elezione regionale, come è avvenuto, perché ricordiamoci, certo, che anche in Germania... Ecco, allora cosa fanno? Cercano di rendere la pillola più semplice, dicendo bisogna coinvolgere i privati. Come? Nel momento in cui tu coinvolgi volontariamente i privati, è una cosa assurda, ed ecco che le agenzie di rating ti tornano e ti dicono stai facendo default. Ed è un meccanismo che non, cioè, da fallimento. Cui non si... Allora tu fai continui compromessi, rinvii, così come accadde un anno fa, vi ricordate? Ci fu un rinvio dietro un rinvio, certo, e alla fine si dovette pagare molto di più, perché la Grecia è il 2% di tutto il PIL europeo. Sì, com'è possibile che si continui a fare perdere tempo e a creare l'effetto valanga, l'effetto contagio, il timore? Ringraziamo Frau Angela Merkel, perché lei che continua per motivi di consenso elettorale interno a non fare l'unica cosa, lo so che andrebbe fatta, salva la Grecia che è già fallita. Quando un paese emette obbligazioni a due anni e dovrebbe dare 23% di rendimento, è già fallito, è come se voi chiedessero 23% per darvi un prestito in banca, siete praticamente falliti. Allora tira fuori sti soldi, evitiamo il solito balletto, perché tanto poi li dovrai tirare fuori comunque, perché se attaccano i mercati, le banche tedesche, le banche francesi, le banche italiane, prima o poi li devi tirare fuori. D'accordissimo con l'analisi di Vittorio D'Arold, che fa capire come l'ennesima tentennamento e titubanza della Germania e del suo elettorato stia portando all'ennesimo stallo, come abbiamo già visto un anno fa nei confronti della Grecia e anche dell'Irlanda. Vittorio, mi sa che ci risentiremo, per ora grazie. Grazie a voi. Grazie al collega del Sole 24 Ore, GR, e poi l'ospite ministro Brunetta per spiegarci perché ha definito l'Italia peggiore i precari che chiedevano di parlare ieri. Chi si aspetta che io attacchi Brunetta o che lo difenda si sbaglia, vogliamo solo capire perché ha detto quella frase che a molti è sembrata infelice. Ci sentiamo dopo GR. Le 18:07, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dopo aver commentato l'ipotesi, le reazioni sull'ipotesi di un aumento dell'IVA, l'effetto Grecia su tutte le borse, meno 2,1% Milano, con le banche che perdono tra il 5 e il 3%, l'euro è sceso a quota 1,4225, ci occupiamo del caso che sta spopolando su internet, ossia lo scontro avvenuto ieri tra precari e della pubblica amministrazione e ministro della funzione pubblica Brunetta. Allora, che cosa è successo? Dico subito, visto che sarà ospite il ministro Brunetta, che non è mia intenzione, lo ribadisco, né criticare né elogiare. Vogliamo capire il perché di una cosa che, vista così, sembra obiettivamente, se non una gaffe, uno scivolone. Allora, ieri, convegno su giovani e innovazione, presente il ministro Brunetta. Alla fine del convegno il ministro si rifiuta di rispondere a una domanda di una precaria, liquidandola con la frase: siete l'Italia peggiore. Visto che la cosa spopola su internet, ascoltiamo questo passaggio di quello che è successo ieri a questo convegno. Scusate, possiamo fare una domanda al ministro, per favore? Ministro, possiamo fare una ripetizione? Il ministro deve andare purtroppo al premio del premio. Sì. Due secondi, per favore, solo due secondi. Scusate, non vi vedo, non vi sento. Se venite qua... Lei si presenta, buongiorno. Io sono della rete dei precari al servizio. Grazie, arrivederci, buongiorno. Arrivederci. Questa è la peggiore Italia, grazie. Buongiorno, arrivederci. Sono i precari della pubblica amministrazione, invece di ascoltarli è andato via. Scusi, perché è andato via? Perché non vuole ascoltare i precari che lavorano per la pubblica amministrazione? Guardi qui. Allora, questo è l'audio di quello che è successo ieri, e siccome questo programma da sempre fa parlare tutti e non prende posizioni politiche, ringrazio anche e soprattutto per la disponibilità il ministro Renato Brunetta per averci raggiunto in collegamento. Ministro, buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Allora, vediamo di capire. È chiaro che la rete ormai domina su tutto e anche su questi eventi, migliaia di messaggi in rete. Prima domanda, molto banale: l'Italia peggiore a cui lei faceva riferimento era quella dei precari? Era quella di quei signori che irrompono nei convegni, nelle assemblee con le telecamerine e bloccano i lavori, bloccano le discussioni, magari bloccano, speriamo di no, i comitati di redazione nei giornali e così via. Si riprendono e si riproducono per i loro, come dire, desideri di appagamento mediatico. Vede, io ero andato lì alla giornata dell'innovazione a parlare di giovani e innovazione, e avevo finito il mio discorso raccontando di un'esperienza che avevo avuto il giorno prima a Napoli, in un ospedale, in un reparto pediatrico di oncologia infantile, dove avevamo installato innovazione per collegare i bambini con i loro genitori, con la scuola, con il mondo esterno. E io avevo finito il mio ragionamento dicendo: questa è l'Italia migliore. A quel punto, dal fondo, una mano mi dice quello che si è sentito, e pensando che fosse una domanda sui giovani, l'innovazione, eccetera, eccetera, ho detto: per favore, venga velocemente perché devo andare dal Presidente della Repubblica al Quirinale, perché c'è la premiazione delle imprese vincitrici del premio dell'innovazione, essendo la giornata dell'innovazione. Quando ho sentito che il tema non era l'innovazione, non era i giovani, perché quei signori erano lì, erano piuttosto attempati, ma erano i precari nella pubblica amministrazione, me ne sono andato. E andandomene c'erano già gli striscioni pronti di fronte a me, con varie insulti, frasi o altro. Era un agguato mediatico. Un agguato mediatico costruito per avere immagine, avere voce. Erano in 4 o 5, non ero in più rispetto a un centinaio di presenti. Era un agguato anche un po' violento, nel senso che poi, mi hanno detto, ci sono stati spintoni, cose, eccetera, qualcuno voleva buttarsi sotto la mia macchina, cioè stavano cercando l'incidente, la rissa e così via, cosa che non è avvenuta perché abbiamo mantenuto tranquillità e nervi e calmi e anche sorriso, per cui alla fine io ho ringraziato, ho salutato, ho detto auguri e così via. Il problema però non è questo, il problema è la rete può essere usata così, la rete può essere usata come un manganello. Io ho detto l'Italia peggiore a chi usa un tema, a chi strumentalizza un tema, quello dei precari, e lo usa a fini personali o a fini di lotta politica o a fini di, e non per voler risolvere lo stesso problema. Mi chiedo, senza polemica, dentro il Sole 24 Ore, quanti lavoratori flessibili ci sono? Quanti, tra virgolette, precari? Dentro Repubblica, dentro Il Fatto, dentro tutti i giornali italiani, quanti precari ci sono? Ed è un problema, lo sappiamo, ed è un problema. Cosa succederebbe se nelle vostre riunioni di redazione, nella vostra vita di redazione, avvenissero quotidianamente fatti come questo e poi fossero mandati in rete? È questa il modo giusto di discutere e dibattere i problemi? Mi rendo conto, io non ho la soluzione. Ministro, allora, noi abbiamo invece, lei non ha la soluzione, ma noi abbiamo il traffico adesso, poi però vorrei capire un po' di cose. Ho capito il suo ragionamento, a me interessa anche l'opportunità di dire siete l'Italia peggiore a chi le fa, le pone una domanda nella fine, pur non essendo obbligato, mettiamola così, alla risposta. Ne parliamo dopo il traffico, molte le critiche che arrivano al 349-238-6666, critiche che sono già anche già in rete, non avevo dubbi. Il resto delle domande dopo il traffico, 349-238-6666 per gli sms. 18:16 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Brisoni, il nostro ospite, il ministro Renato Brunetta. Allora, dopo quello che è successo ieri, allora ministro, ho capito, lei dice non c'entravano con l'intervento non c'entrava con il tema del convegno, era un agguato mediatico organizzato, però le chiedo, obiettivamente, secondo lei ha un senso? Lo rifarebbe, cioè voglio dire, visto che lei è anche un ministro, rappresenta tutti, rappresenta come governo tutti gli italiani, anche i precari della pubblica amministrazione, lei tornerebbe a dire la frase che ha detto ieri, cioè rappresentate l'Italia peggiore? Assolutamente sì, l'Italia peggiore è quella che si disinteressa della concretezza dei problemi, della realtà dei problemi. Ho fatto più io per i cosiddetti precari della pubblica amministrazione che tutti i miei predecessori. E io faccio professore di economia del lavoro, conosco benissimo il tema della flessibilità, i problemi del mercato del lavoro e così via, però a questi signori, che sono di solito figli della rendita di posizione romana, non possiamo saperlo, di questa cattiva società romana. Sono molto romani questi signori. Adesso non vorrei allargare. Se lei mi chiede come la penso, allora certo. Io faccio l'economista, conosco i problemi. Lei non mi ha risposto su quanti precari ci sono. No, ma adesso le rispondo. Non ho risposto perché il numero non lo so. Qualche contratto a tempo determinato c'è, ci mancherebbe. Su questo. No, ma l'altra domanda che mi interessava era la contestazione. Perché lei dice, insomma, era una contestazione organizzata, fatta apposta, era chiamata trappola. Però chiedo, l'uomo politico vale per il centro-sinistra come per il centro-destra? Vale per i fischi a Prodi, alla Confartigianato? Di quando c'era l'ultimo governo Prodi, non dovrebbe, tra virgolette, anche accettare, capisco benissimo che i fischi come il rumoreggiare della sala non siano una cosa bella, e che però non è prevista anche nel ruolo politico di poter essere contestati con la rete o senza? Si terrebbe una contestazione in una riunione di redazione? dall'esterno si apre una porta, entra un gruppo durante una riunione di redazione per organizzare il lavoro della giornata, entra un gruppo di persone e dice no, finite, smettetela con la riunione di redazione, dobbiamo parlare del problema delle pulizie dentro il palazzo del Sole 24 Ore, diciamo che se ci fosse un'assemblea dei redattori come spesso avviene le contestazioni salgono. Quella non era, mi scusi, un'assemblea sul precariato. Quello era il convegno sull'innovazione e si parlava di giovani e innovazione. Se e quando discuteremo, io discuto in tutti i modi, in tutti i momenti, nelle aule parlamentari, nelle assemblee, discuto sempre e dappertutto, però devo dire ci sono i modi e le forme. In un'assemblea di redazione certamente si discute anche del problema dei precari del Sole 24 Ore piuttosto che di Repubblica, piuttosto che del Fatto, eccetera, eccetera. In una riunione di redazione dove si lavora e si fanno altre cose, si discute e si fa di altre cose. Altrimenti, attenzione, chi di strumentalizzazione colpisce, di strumentalizzazione perisce poi alla fine. No, diciamo che... Non è libertà questa. Allora, vogliamo discutere del problema dei precari? Discutiamolo. Io, per esempio, adesso sto. Ho fatto un video di risposta, sto rispondendo a tutte le mail di contestazioni, di insulti che sto ricevendo, ricostruendo i fatti e spiegando che la mia frase, che riconfermo, l'Italia è peggiore, era rivolta a chi strumentalizza la condizione dei precari a fine di visibilità mediatica o di lotta tra virgolette politica, quando invece il problema dei tra virgolette precari, o meglio dei lavoratori flessibili, di quelli che hanno un contratto a termine, eccetera, eccetera, è un problema reale. Ecco, allora su questo vorrei fare l'ultima domanda. Dico a chi scrive al 349-238-6666, che insomma il ministro Brunetta è venuto ospite per chiarire le sue ragioni. Ognuno poi può pensare come vuole, questa è la democrazia. Il compito mio e di questa radio è di dare la possibilità a tutti e due di far sentire la loro voce, quindi c'è la ricostruzione fedele che abbiamo fatto ascoltare e la spiegazione del ministro Brunetta, basta, la mia opinione, lo dico a chi scrive, è del tutto irrilevante, come sempre in questo programma. Mi dica una cosa, ministro, restando sul tema dei precari, ho capito la sua obiezione, le dice, non era quello il momento nemmeno, diciamo, per la contestazione, che se ho ben capito ci può stare se è il luogo, cioè se il fischio è al ministro nell'assemblea di una categoria produttiva, per la politica queste cose sono all'ordine del giorno, sono normalissime. Quindi il problema non è la contestazione, è il luogo in cui è avvenuta, il fatto che fosse fuori luogo anche in senso di contenuto. Sul tema dei precari, il ministro Tremonti sabato scorso da Santa Margherita Ligure è sembrato, o perlomeno così tutti l'abbiamo capito, dire alle imprese, allora ragioniamo di agevolazioni fiscali anche e soprattutto per le imprese, anche e soprattutto in quello che si chiama una volta il cuneo fiscale, cioè liberando risorse in busta paga e possibilmente anche sulle imprese, però voi imprenditori state abusando, c'è stato un abuso abnorme dei contratti, diciamo, da precariato li chiamano alcuni, non di assunzione a tempo indeterminato, siate più attenti in questo. Fermo restando che poi i numeri sono molto diversi tra mondo dei servizi e mondo delle manifatture e delle industrie, lei è d'accordo su questa specie di scambio d'outdes? Allora, mi consento di fare il professore. Allora, il numero dei contratti a termine o atipici è un po' diverso l'uno dall'altro, ma insomma mettiamo di tutti quelli a tempo non indeterminato in Italia è meno della metà della media europea. Fino a pochi anni fa, fino alla legge Biagi, gli atipici praticamente non esistevano, erano tutti nel sommerso. La legge Biagi è riuscita a far emergere una parte di questo sommerso con dei contratti a termine o atipici. Quindi noi abbiamo un fenomeno che non conoscevamo prima, ma che è ancora in misura limitata. Molto probabilmente per questo lo stiamo gestendo male, anche in termini di percezione, opinione pubblica, imprese. Il vero problema è che spesso una parte di questi lavori atipici, una parte, solo una parte, si protrae troppo nel tempo, o per ragioni strutturali in certe tipologie di servizi, o per patologie, chiamiamole così, una parte, ma solo una parte di questo universo, viene riprodotta per troppo tempo. Questa è la patologia. Non è facile risolvere questa patologia perché per le imprese c'è un problema, pensiamo all'editoria, di costo del lavoro. Cosa diversa è nel settore pubblico. Nel settore pubblico la situazione è molto particolare perché nel settore pubblico a un blocco sostanziale delle assunzioni. Nel settore pubblico non si assumono, pensi, neanche i vincitori di concorso, per ragioni di finanza pubblica, di blocco, che Tremonti conosce bene, anche perché i blocchi li ha voluti assolutamente lui, con tutto il governo, perché bisognava salvare il bilancio del paese. E cosa hanno fatto le amministrazioni, tutte le amministrazioni? Hanno ricorso, sono ricorse a contratti a termine. E si è formata una sacca, non molto rilevante, ma si è formata una sacca, che per la scuola abbiamo avviato a soluzione, ma che per in altre amministrazioni è difficile risolvere. Sì. Anche perché nel settore pubblico per le assunzioni a tempo indeterminato bisogna fare il concorso, e perché per Costituzione nel settore pubblico si entra solo per concorso. Invece molti di questi atipici nel settore pubblico vorrebbero la cosiddetta stabilizzazione e così via. Allora, per ragioni di finanza pubblica, per ragioni normative e così via, tutto questo non è possibile. Cosa succede? Che le varie amministrazioni nella loro autonomia ripropongono a tempo indeterminato i tempi determinati. Sembra un paradosso. Questa è la situazione, però d'altra parte vogliamo che chi lavora per il settore pubblico per 3 mesi, per 6 mesi, magari riportando rose in un vivaio comunale, eccetera, eccetera, poi alla fine venga assunto a tempo indeterminato? No. Il tema però mi sembra, Ministro, anche un altro, nel senso che quello che lei ricorda è la fotografia degli ultimi anni. Negli ultimi però 2 anni, dalla crisi in poi, dati Istat alla mano, dopo un anno di lavoro, di contratto atipico, si è passati dal 53% che ancora aveva il lavoro atipico, il contratto atipico, al 60%, e si è scesi da chi prima riusciva ad avere un contratto stabile, parlo anche nel settore privato soprattutto, che era il 26%, al 16%, con, come ricorda la Banca d'Italia, una pressione anche sui salari, perché non c'è solo il problema del tipo di contratto, c'è anche l'ammontare dello stipendio. Però, vede, questo è un problema, è un problema di carattere generale, dove il grosso della precarietà è nel settore privato, dove la parte minore della pressione dal punto di vista numerico è nel settore pubblico, e dove c'è più manica larga nel settore pubblico, ma guarda caso, il conflitto è soprattutto nel settore pubblico. Che è più organizzato sindacalmente, probabilmente, no? Ma anche non ha di fronte, come dire, un vero datore di lavoro. E il risultato è che mentre nel settore privato c'è un vero datore di lavoro che, come dire, fa i conti, nel settore pubblico è facile fare una sanatoria, una stabilizzazione, tanto poi paga pantalone, perché vede, per me sarebbe stata la cosa più facile dire: benissimo, prendiamo tutti i precari della pubblica amministrazione, 30, 50, 100, 200 mila, stabilizziamoli, facciamoli entrare nella pubblica amministrazione. Una battuta, mi dice invece se secondo lei la famosa quadratura del cerchio, lei ha fatto molte interviste su questo, però tra rigore nei conti pubblici, oggi il caso Grecia è di nuovo esploso con tutta la sua virulenza, e possibilità di ridurre sensibilmente le tasse, perché insomma, se poi la riduzione è un palliativo è meglio non farla nemmeno, è veramente una quadratura possibile, o è diciamo, una quadratura politica ma dal punto di vista del bilancio quasi irrealizzabile? Ma vede, io credo che nel bilancio dello Stato ci siano enormi spese su cui è possibile fare razionalizzazione e tagli enormi, solo che a questi tagli corrispondono normalmente rendite di posizione, a partire dalla pubblica amministrazione. E per questo dico che avendo la voglia e avendo la determinazione si può e si deve tagliare. E noi invece, Ministro, dobbiamo tagliare qui la puntata, perché abbiamo neanche 30 secondi. Io la ringrazio. Devo dire che non sono d'accordo su alcune cose, ma ripeto, la mia opinione non conta nulla. Grazie al Ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta. Vedo moltissimi messaggi, la maggior parte di contestazione. Non era il modo, bisognava rispondere alla domanda, non è vero che è stato interrotto, era una domanda comunque di lavoratori, anche se precari, del pubblico impiego. C'è chi addirittura parla di 2 stipendi di Brunetta, non mi sembra obiettivamente questo il tema. Sull'accusa ai romani, il ministro Brunetta è ministro, si assume ogni responsabilità di quello che dice. A noi interessava capire anche la sua versione. Qualcuno ritiene che sono stato troppo morbido con lui, non avevo dubbi, le critiche sono una costante anche a questo programma. Mettiamola così, almeno questa volta non ha sbattuto il telefono in faccia. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, noi ci risentiamo domani con un'altra puntata di Focus Economia dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.